Graziella, 16 ore, dillo te, 20 e 33 del 1 settembre 2024. Prego. Allora, abbiamo parlato del periodo dall'89 al 94, però vorremmo un po' più scavare il personale di questi allora, anni. Io credo che di quel periodo, ci pensavo prima durante la sostina, in realtà noi abbiamo affrontato quello che è l'idea che io mi ricordo ora di aver avuto, e quindi dove volevo andare a parare, perché alcune cose, eccetera. Dopodiché però credo che ci siano anche altri due aspetti, non uno, che entrambi riguardano il personale. Un aspetto che è quello che io pensavo in quei 4-5 anni, a me sono successi tantissimi episodi, ma tanti, che poi magari ti dimentichi, che se devo fare un paragone con altre epoche della mia vita, per avere un numero tale di episodi, anche rilevanti, che poi ti cambiano, forse mi ci vuole 15-20 anni di solito in un tratto normale della mia vita. E questo è un aspetto, perché questi episodi particolari hanno anche molto modificato il mio sentire. E questo è andato poi ad influire nella mia vita privata. Quindi, ecco, per parlare della vita privata bisogna un po' anche partire da questi episodi, perché sono stata, dicevo prima all'inizio, di come tutto è iniziato in maniera visibile molto per me il giorno stesso in cui sono andata a questo congresso nazionale della CIGE, dove sono stata eletta segretaria nazionale, e improvvisamente mi sono trovata in un contesto che non prevedevo esserci. Non era più l'andare al congresso nazionale dell'ARCI e poi di andare in segreteria nazionale, ma comunque era una pratica o strategia politica che applicavo, ma poi alla fine tornavo a casa mia a Verona, avevo comunque le mie relazioni che già avevano preso in quel periodo, ero uscita da un rapporto di lunga durata, ero in questo rapporto molto conflittuale con questa Francesca, e già ne avrei avuto abbastanza di questa cosa. Ovviamente finire in questa giostra, perché è una giostra, ha complicato tutto, le mie percezioni e soprattutto anche le mie relazioni, perché a quel punto prima parlavamo di come ho vissuto queste cose che ho fatto, che in realtà non è stato un percorso collettivo, è stato un percorso in solitaria, ma è stato un percorso in solitaria anche da un punto di vista emotivo, cioè le stesse compagne che posso aver avuto nell'epoca, cioè avevano difficoltà a rapportarsi a me e viceversa, perché era come vivere su piani diversi contemporaneamente. Cioè, come fai a stare con una persona che è sempre in giro, che poi si va a mettere nei casini, che poi arriva e stanca, cioè che ne ha altri 1100 per la capa, e contemporaneamente che non riesce più a costruire un rapporto sereno, ma soprattutto non riusciva a darmi delle prospettive. Cioè, in una relazione una minima prospettiva te la devi dare, te la puoi anche dare, boh, io ora sto con questa persona per una settimana perché voglio vivere questa cosa e poi vedrò, è già una prospettiva. Io neanche quello, cioè io non riuscivo neanche a darmi la prospettiva di una serata, cioè non sapevo neanche se iniziavo quella serata con quella persona e poi magari la portavo in fondo, perché poi magari succedeva qualcosa, tipo mi telefonavano, tipo arrivava qualcun altro, mi attaccava a bottone, mi portava da un'altra parte, sì, cioè in un istante mi dovevo aspettare un po' qualsiasi cosa. Quindi di fatto io fin da quel momento, di quel giorno, la prima cosa che mi saltò all'occhio fu quando, come dicevo prima, arrivai a Bologna davanti al cassero e tutti, e lei e lei, con tutte le lesbiche che comunque erano il mio riferimento, che scapparono su per le scalette del cassero, con capitanate dalla Rita Faustini, che era la più vecchia di tutte, che gridava «è la RAI, c'è la RAI, c'è la RAI», e tutta questa fila a scappare, Bonomi compresa, a chiudere la fila, e io che mi sono piazzata sulle scalette del cassero a non far passare la RAI, cioè a fare da... È ovvio che, fatto questo, il momento dopo non eravamo più come era il momento prima. Certo. Io era come se improvvisamente fossi diventata la mamma di tutte queste. E essere la mamma di tutte significò anche rendermi conto che sarebbe stato difficilissimo stabilire un rapporto paritario. Perché poi successe quello a cui mi accennava prima l'Elena, che in quel momento cominciò ad andare su tutti i giornali, poi in televisione, e fra l'altro ingenuamente, perché ai tempi non c'era ancora anche certa malizia, io avevo il numero in elenco, certo, a casa, quindi chiunque guardava Verona, Bertozzo, Graziella, mi telefonava, quindi mi telefonavano per tutto, quella che mi telefonava per chiedermi consiglio, che c'era una le piaceva e come poteva fare, papà papà. Poi mi telefonava la terza volta e scoprivo che quella che le piaceva era io. Era tutto un affar così. È chiaro che la vita ti si stravolge. Io credo che per tanto tempo non ho avuto la segreteria telefonica. Non avevo neanche il tempo, la testa, i soldi di pensare ora mi compro una segreteria telefonica. Quindi io rispondevo. Credo che questo mi sia rimasto, che io odio tantissimo il telefono. Cioè, io ho difficoltà a rispondere al telefono, se posso non rispondo, preferisco mi scrivano, secondo me incide anche quello. Ovviamente poi tendevo anche a intanto a non essere consapevole di questo, mentre ero consapevole da un punto di vista strategico, di strategia politica, di come funzionava, quindi anche di mettermi in un certo modo, quindi anche di capire che i giornalisti volevano da me le storie private, io dovevo sempre girarglielo e dire no, ma io sono qua per parlare di politica, non sono io quella, e qui e quello ci riuscivo. Quello che invece non capivo era come le altre lesbiche si relazionavano a me. Mi potevo capire molto di più come certi uomini si relazionavano a me, avevo più difese, tipo quelli che mi scrivevano volendo le mutande sporche. Cioè è ovvio che avevo delle difese, non gli rispondevo e va il culo. Sì, sì, certo. Mentre con le lesbiche ero estremamente fragile, perché da un lato le avevo adottate tutte. Cioè quindi in questa follia, perché dopo era una follia in testa mia, no? Perché a quel punto ti scatta l'aspetto emotivo, quindi emotivamente io mi sentivo, anche per giustificare il mio essere in certi luoghi, io ero lì per questo, io ero lì per dare un'opportunità, e come facevo a tirarmi indietro? Mi era quasi più facile quello che raccontavo prima, che mi veniva a dire che lui aveva l'AIDS e infettava certa gente, a un certo punto tira giù la saracinesca e dire no, io non mi posso assumere questo, e comunque almeno chiamavo il medico che ritenevo più titolato di me. Ma chi era più titolato di me? Cioè, non a parlare con loro, certo. A farsi carico di queste lesbiche disagiate, perché poi era il disagio che veniva fuori, no? Molto spesso anche cominciarono a invitarmi nei posti dove poteva essere anche delle lesbiche un po' fuori a invitarmi, perché voleva magari organizzare un incontro, e poi a trovarmi assediata, come mi è successo ad Ascoli Piceno. Mm-hmm. Cioè che questa mi ospitò a casa sua e cioè, mi resi conto che lei ci avrebbe provato. Cioè io ero terrorizzata, non mi ero mai dovuta dipendere da una donna, mi chiusi a chiave in camera. Avevo paura, anche perché ero una grande grossa. Cioè, e poi mi rendevo conto che mi sembrava una tipa strana, quindi non c'era nessuna relazione tra me e lei. Era la prima volta la vedevo in vita mia e lei si aspettava che io fossi a sua disposizione, che è una cosa che fanno gli uomini di solito, ma questa roba mi stonava parecchio. Quindi vivevo costantemente in questa, avendo fra l'altro una fidanzata che era la Francesca Vaini a Verona, con cui il rapporto era abituale, con lei che a un certo punto scoprì che aveva un'altra, che era l'Antonia, e poi si pentiva e poi tornava indietro, e con me che ero peggio di lei, ero stronza, e magari mi succedeva pure che mi invaghivo di qualcuna, in particolare mi invaghì di questa Valeria Ayovalasit, che era la presidente dell'Arcidonna. Ok, di dove stava sta donna? Lei stava a Palermo, però era più a Roma che non a Palermo, una piena di soldi, secondo me anche una stronza, che però in qualche maniera lei le fece gioco perché lei, cioè l'arcidonna era in realtà una sua creatura, e lei aveva un modo di far politica estremamente maschile, lei andava bene con Grillini, non con me, e secondo me io le piacevo, però io ero troppo esposta. Infatti, secondo me, io dopo capii che avevo un'altra, che però che era sempre dell'arcidonna, però non si diceva. Quella dell'arcidonna, a parte la Bianca Pomeranzi e la sua compagna, che erano visibilmente ed esplicitamente lesbiche, tutte le altre, molte erano lesbiche, ma non lo dicevano neanche tra di loro. Quindi, e una era lei di queste, per cui un po' ci provava, un po', insomma, una volta andai apposta a Roma. Si era fatta prestare la casa, sul più bello che si stava iniziando a fare qualcosa, arriva quella da cui si era fatta prestare la casa, una specie di tragedia, perché capì che lei aveva una storia con questa, non gliel'aveva detto che mi faceva andare lì. E mi ricordo che io ci rimasi malissimo, tornai tutta scornacchiata, tra l'altro io non avevo soldi. Per andare a Roma a trovarlo, mi ricordo che per fare il biglietto avevo raccattato le monetine in tutta casa. E tornai tutta scornacchiata a Verona, e siccome sono scema, lo raccontai pure alla Baini: mi dovete venire a consolare alla stazione perché ero stata scornacchiata da questa. Quindi, per dirti, anche questa era una cosa tanto stramba. Poi io con questa ci ho fatto anche delle cose, ma cioè intendo delle cose politiche, però sempre un po' con questo non detto, con questa cosa, anche da parte sua, secondo me, con questa modalità un po' di colpevolizzare me, perché io ero la lesbica e lei no, invece, capito? Non mi è mai stato chiaro questo, a un certo punto ho anche smesso di cercare di capire. Racconto questo perché forse è l'unico caso in cui obiettivamente mi ero inguaglita. Gli altri casi invece erano tutti all'opposto, cioè che finivo in dei posti, e lei di fatti era più grande di me. Invece a me non è che interessasse le ragazzine, poi sono finita a stare sempre con gente più giovane di me, perché gente più giovane di me ho sempre frequentato. Però, cioè, io andavo, mi stancavo molto la sera, mi davano da bere, io bevevo, e non ero neanche consapevole che magari c'era quella a cui piacevo, ero un po' un trofeo da prendere, e mi tirava su, io manco me ne accorgevo finché non ci veniva a letto. A quel punto magari non mi dispiaceva neanche, ma dopo, cioè, io poi non avrei più voluto vederla quella persona, perché non l'avevo voluto, mi c'ero ritrovata, e questo mi è successo varie volte in posti diversi, per cui alla fine andavo, mi stancavo, una mi tirava su, finivo pure a letto con della gente di cui non me ne fregava nulla, che poi magari in alcuni casi l'avevano vissuta come me e quindi andava bene, capivano e si lasciava perdere, altri casi mi tiravo su queste situazioni da cui non mi sapevo dispigliare. Un esempio che racconto sempre fu quella volta dove davvero uno dice stronza, no? Ti fa un po' ridere, ma anche ero stronza tanto. Così era il periodo in cui, fra l'altro, la Francesca mi aveva tradito con l'Antonia, avevamo vinto un biglietto in realtà insieme per andare in Tunisia, però formalmente l'aveva vinto lei. Lei decise di andarci con un suo amico perché con me era in crisi in quel momento. Io ero così, mi tiro sulla Betty, che aveva messo l'occhio su di me, convinse una sua amica a farmi andare al Carnaby, e io ci finì a letto. Con la Betty poi continuò, però, perché non era una di Belluno piuttosto che. E tra l'altro poi la Betty a me anche piaceva, per quanto la Betty sia amata, non ci sarei mai stata con una come la Betty, e lì altra conflittualità, per cui a volte andavo via con la Betty, magari andavamo in vacanza assieme, poi ero sempre lì che dovevo telefonare alla Francesca, perché quella Francesca non sapevo. In tutto ciò però poi succedeva che me ne tiravo su ogni posto dove andavo un'altra. E ovviamente anche con la Betty facevo esattamente come con la Francesca, le dicevo: ah, mi è successo questo, ah, mi è successo quell'altro. Quindi sempre in sincerità. Sì, io non sono capace, perché tanto una me la tira, ma non sono mai stata capace di tenere una cosa. L'unica cosa che poi la raccontai, perché in realtà mi liberai di due quella sera, poi, o quasi, feci male i conti. C'era un'iniziativa a Bologna, tipo una festa, forse è stata il 28 giugno, non me ne ricordo, al Cassero. io ho deciso di andarci, dovevo andare a fare la segretaria nazionale e spesso era il periodo in cui spesso mi volevo con la Betty, perché poi la Bonomi e la Betty non si potevano molto vedere, quindi quando comparve la Betty scomparve un po' la Bonomi, nel senso che io mantenni comunque l'amicizia con la Bonomi, ma andare in giro con la Betty mandava bene solo se stavo male, perché mi riportava indietro, ma la Betty non è in grado di gestire relazioni, quindi me la portavo per non avere relazioni spesso la Betty, non al contrario. Comunque decido di venire con la Betty e si viene al Cassero. Mi accorgo poi, mi viene in mente, che avevo fissato al Cassero con una di Bologna con cui era successo qualcosa una sera, e gli ho detto, ah ma io guarda, quella data vengo sicuramente al Cassero, se mai ci si vede allora. Quindi lei l'ha ritenuto un appuntamento. Contemporaneamente c'era una matta di Milano, tale Chiara Costariol, che la Biagini l'ha anche vista. Ma non ricordo più, però quella mi ricordo che sgommò in macchina davanti al Carella, vabbè, anche perché nel frattempo erano passati anni. Questa Chiara Costariol, che anche questa era andata uguale, era andata in un'iniziativa al CIG a Milano, ma aveva tirata su, ma l'aveva portata a casa sua, che tra l'altro era casa dei suoi, neanche casa sua. E cioè io non volevo, ma lei si picconò, mi scriveva compulsivamente, ma cominciò a spedirmi per posta tutti i suoi diari dai 3 anni ai 25. E anche con lei, evidentemente, pensando che tanto forse non sarebbe mai venuta, disse no, ma io guarda, perché poi non ero capace proprio di dire no, basta, guarda un'altra. Cioè mi sentivo in colpa a quel punto, perché a letto c'era andata e pensavo dovevo dirlo prima, ora come faccio? E quindi disse, no ma guarda, io quel sabato lì sono a Bologna, al Cassero. Lei lo ritenne un invito e capì poi che era successo che avevo fissato al Cassero con 3 diverse, la Betty, la Chiara Costariol e quest'altra di Bologna. Quindi non si può cazzo fare. E fortunatamente il Cassero era fatto a piani e c'era il bar sotto. Poi c'era una sala dove facevano i video e in cima c'era la terrazza dove c'era un altro bar. Io arrivai all'inizio con la Betty e con la Betty disse volevo vedere il film, quindi ci si sistemò ai video e io e la Betty e si cominciò a vedere questi video. Quando pensai che dovevano arrivare quelle altre, disse Betty vado a prendere qualcosa da bere. Andai giù, quella che arrivò per prima fu quella di Bologna. Quindi, quella di Bologna, come guarda, fa tanto caldo, andiamo su nel terrazzo, così passando, vedi che la vecchia era sempre là, che... e andai su, disse, ah no, guarda, aspetta un attimo, devo andare un momentino in bagno, intanto tu ordina una birra. Scendo, vado giù, arriva quella di Milano, dico, ah guarda, si sta bellissimo il bar a piano terra, mettiamoci qua al bar. Passai tutta la sera, io penso mi ubriacai, perché dovevo bere con tutte, quindi porto il bicchiere alla Betty, cioè ci ho messo mezz'ora prima di arrivare col bicchiere perché dovevo, poi vado su di sopra, nel frattempo quella mi aspettava con la birra, bevi la birra, inventavo una cosa, andavo giù con quell'altra che era al bar, insomma passai una serata così, cioè per me quello lì fu l'oltre a cui arrivai. Alla fine credo che compensai tutto alla Betty e scappai, scappammo a un certo ora, cioè no, io devo tornare a Verona. E nulla, e però la Chiara Costariol se la segnò, tanto che io dovevo tornare a Milano e tornai con la Betty, Betty devi venire anche te, vedrai che si presenta la Chiara Costariol, perché era un'iniziativa dove c'era il mio nome, la Chiara Costariol sicuro che viene, quindi si va a Milano, si presenta la Chiara Costariol, io almeno facevo finta di stare con la Betty, che certo. Facevo finta, era vero, non si sa, così ho pensato la Chiara Costariol se la mette via. Quindi andiamo, finisce l'iniziativa, si va tutti insieme in un bar, la Chiara Costariol mi si appiccica, io sto lì con la Betty e dico, senti, però guarda, no va bene, ho capito, però devi venire fuori un attimo perché devo parlarti. Devo parlarti, devi venire un attimo con me, almeno parliamo un attimo che chiariamo una volta per tutte. Io dico, vabbè, qua devo finire. Quindi esco con la Chiara Costariol, mi fa salire in macchina, però in macchina parte sparata. Cioè, io volevo buttarmi sotto, cioè, ma dove va ora questa? Ma ho pensato, madonna, è matta. Ma portata, distante, non sapevo neanche dov'era, ma attaccato tutto un discorso di pianti e là, e non riuscivo più a farmi riportare indietro. Sono riuscita a farmi riportare indietro un'ora e mezza dopo, Cioè, nel frattempo se ne erano andati tutti, era rimasta la Betty che non sapeva neanche come fare a trovarmi, mica c'erano i cellulari. Insomma, ho rischiato di essere rapita dalla Chiara Costagnoli. E poi insomma è finita. Questo è stato, secondo me, un grosso segnale di dovermi dare una regolata su queste cose. E secondo me lì un po' smisi, cioè mi dette un po' una regolata e cercavo di non finire più in situazioni proprio così clamorose. Ma non c'era, scusami, in tutto questo, perché raccontato così, cioè, anche un aspetto piacevole di così. Sì, la racconti dopo e dici, ah, guarda che bello, però. Cioè, lì per, diciamo, perché poi sono passati molti anni, ma lì per lì, se tu dovessi ripensare a quel momento, non era anche divertente avere no, sotto vestiti? No, no, era, per esempio, la cosa con la Rosy, per come poi, me l'hai raccontata, poi ce ne me sono sempre anche di carine invece. Cioè, avrei incontrato anche delle donne che comunque no, ganze, che sono piaciute. Mi dispiace perché è morta l'altro anno. Giovane. Morta giovane. Sì. Che era più giovane di me, la Rosy. Sì. Questa andò così, invece. E di fatti quella per me è stata una bella storia, peraltro questa poi divenne la fidanzata della Titi De Simone. Questa era una di Palermo, che io conobbi così. Sempre in quel 1990 ci fu quello che fu l'ultimo congresso nazionale del PC, che era a Bologna, prima la Bolognina, che era, secondo me, dei ricordi, che io non conoscevo Bologna, ma mi pare fosse al Palazzetto dello Sport. E quindi anch'io ero in qualità di segretaria nazionale della CGIE e vi invito come esterna. Cioè, io ero in gloria di questa cosa, ovviamente, quindi andai, mi ricordo che avevo il posto vicino alla Lidia Menapace, perché anche la Menapace era invitata come esterna. E io ero affascinata da questo mondo, capì un cazzo, perché io non ero del PC, però c'era tipo Craxi, mi ricordo, Pannella che venne a cercarmi a dire perché hai fatto la CGIE. Con l'Arcigay dovevi venire con noi, c'è sempre questa cosa del fuori che tutti mi volevano far fare il fuori donna dopo che avevano distrutto la Spolato, ma quella anche, vabbè. E quindi ero lì, ero più in giro nei vari posti, perché era dove tu vedevi di più queste scene. A un certo punto, invece la Menapace era là in perterrita, seguiva tutto, torno nel mio posticino e la Menapace fa, sai, è venuta a cercarti una ragazzina. Ah, dico io, gli ho detto che ora sei in giro, ma che il tuo posto è questo, vedrai che torna. Dopo un po' torna sta ragazzina, ma giovanissima, 18 anni, mi si presenta, va, voglio proprio tanto conoscerti, ci tenevo tanto, perché io sono lesbica, però fa pensa, sono la più giovane delegata del PC. Beh, ero delegata del PC di Palermo. E quindi mi si appiccica, a me piaceva, perché, ecco, era a quel livello mi ci stava bene, ci sarei anche andata a letto assieme, perché non la sentivo disagio, no, in genere sentivo sempre il disagio di queste, no? Quindi è vero che lei era affascinata da quello che era il mio ruolo e così via, però lo diceva, non era una, era trasparente rispetto a questo, quindi comincia a chiacchierare, eccetera, eccetera, e mi ricordo che si rimane fino a sera, quindi abbiamo cominciato a girare insieme. Ora non so se ricordo bene tutti i passaggi, comunque la prima sera io dormivo da Grillini, mi ricordo a casa di Grillini, e quindi ci si saluta, ci si vede domani, la mattina arrivo un po' tardi, un po' provata, eccetera, e lei mi stava aspettando davanti alla sala al palazzetto dello sport con una rosa. No, bellina, ma commossa, perché io sono Rosy, volevo regalarti questa rosa, eccetera. Io quel pomeriggio poi avevo fissato, perché anche quella è un'altra storia strampalata, c'era un giornale che mi voleva fare un'intervista, un giornale che poi chiuse, questa intervista non uscì mai. Era un giornale che si chiamava Corus, era un mensile che aveva si sarebbe rivolto, non era un giornale femminile, era, non c'è neanche un paragone, come può essere ora un Internazionale, quindi con una serie di approfondimento, ma anche sul locale. Avevo letto qualche numero, non era male, infatti non ha letto niente. Anche perché era costoso, un po' di carta patinata, un po' pretenzioso troppo. Quindi avevo pensato con questa giornalista che ho scoperto dopo, o meglio, l'ho scoperto lì, ma all'epoca era una sconosciuta, era tale Carmen Covito. Questa Carmen Covito, qualche... Che poi diventava famosa. Sì, è quella che poi scrisse la bottina stagionata. Mm. Effettivamente era proprio come tutti puoi immaginare la bottina stagionata, una signorottina che avrà avuto, penso, 40-45 anni, che dopo me l'ha dato, anni dopo, questo articolo che lei ha scritto, che non è mai uscito, e che fa tenerezza anche quello a leggerlo, perché lì è come lei ha vissuto questo incontro, dove racconta, lei arrivò prima, io in realtà ero in ritardo, ma lei invece pensava di essere, lei è arrivata in anticipo, e c'era davanti all'edicola del Cassero, no, all'edicola, sotto al Cassero, all'epoca c'era un fioraio, e quindi lei non sapeva bene come comportarsi con me, con una donna, come si fa, pensò di comprarmi tipo delle violette. E quindi, tutte regalate di fiori. Sì, così per... E stette a vedere questi tizi, e lei gli chiese anche se lì è dove c'è la sede del Cassero, eccetera. Questi la guardarono abbastanza, ma fino a una certa ora non ci sono. Insomma, ste violette alla fine non le comprò. E io arrivai con la Rosy, questa, perché nel frattempo eravamo state assieme tutto il giorno e volevamo rimanere assieme, però io avevo sta cosa. E quindi dai, vieni anche te. Mi ricordo che arrivai e la Carmen Covito mi aspettava lì, si andò al bar vicino perché era ancora chiuso il Cassero, e io mi immagino quanto la rintronai della storia che so come i capi indiani, chissà, ne l'avrò raccontata, quello che mi veniva in mente, e c'avevo queste due ascoltatrici, quindi ero in gloria, figurati, la Carmen Covito che pigliava racconti, quell'altra tutta interessata e appassionata, quindi mi sono proprio sdata, e finisce sta cosa, non mi ricordo se poi abbiamo mangiato lì o cosa, quella sera c'era una festa di Visibilia, e quindi io con la Rosy ho detto, guarda, c'è questa festa, magari andiamo alla festa di Visibilia. E quindi si parte, si va. E avevo fissato anche con la Bonomi, ma secondo me questa è stata la terza sera. Quella sera lì non finì così. Ci si andò dopo alla festa di Visibilia. Dissi alla Carmen Covito che voleva sapere delle separatiste, del perché ero così, di perché prima le lesbiche non erano mai uscite. Io gli dissi, guarda, se vuoi farti un'idea, domani sera c'è una festa di Visibilia, che è un'associazione separatista solo per donne, te vieni, fai la tessera, quello che c'è per entrare, non è che puoi far foto, cioè, però tu vai e ti rendi conto di com'è, di anche le difficoltà, cioè io quello che cercavo di spiegarle era come io volevo portare in quel contesto la gioia di vivere. Perché con tutto il mio delirio però era quello, quindi anche questo per esempio, tipo la Rosy, questa roba la capiva, era la generazione dopo la mia, e quando prima dicevo alla fine parlavo un linguaggio che poteva andare bene per una di 20 anni, c'era, ci stava di più questo tipo di linguaggio, perché noi non avevamo vissuto la libertà sessuale di inizio anni 70 che avevano vissuto i gay, i froci, questa scoperta del corpo, i campeggi gay, tutto ciò. Sì, chi aveva partecipato al movimento lesbico femminista, sì, ma era un'esigua minoranza, ma quelle perché erano arrivate da un percorso, era comunque una cosa che dava, doveva avere una certa impostazione anche di scelta culturale, di scelta di vita, ma questa cosa così di vivere con gioia la giornata, senza farti molti problemi, era un po' una novità. Per una lesbica che aveva, a cui avevano inculcato che essere lesbica vuol dire essere infelice tutta la vita. E quindi tutto ciò, quella sera poi andò a finire che io e la Rosy si andò al Cassero quando aprì, e mi ricordo che a un certo punto nacque un po' la storia, ci si mise a baciarci, eccetera. E la cosa divertente è che a un certo punto eravamo tutte così appassionate, venne da me una tipa che non conoscevo, a dire, no, ma guarda, se hai bisogno, io, guarda, vado da una mia amica, ti presto la mia stanza. Questa tipa era l'Isabella, l'amica della Monica. Lisabestia. Lisabestia, che è una che si conosce ora, una di Bologna, che peraltro poi la Monica la, cioè, personaggione, la Isa, personaggione, sì. Ma era giovane anche, perché anche di Isabella, la mia età, la Isa, ecco, esatto, quindi aveva 20 anni anche lei, e quindi sta Isabella ci dà la chiave di casa, e quindi poi alla fine si finì a casa sua a scopare, no? Così il giorno dopo riborda, non so cosa si sia fatto, e mi ricordo che poi c'era la festa di Visibilia, quindi io ho deciso di andare alla festa di Visibilia, e secondo me c'era anche la Rosi, ci si andò assieme, ma avevo fissato con la Bonomi e un gruppetto di Verona, di quelle festaiole, perché il resto non gliene fregava nulla, ma quando c'erano le feste loro calavano, e mi ricordo che si arrivò alla festa, era ancora prestino, non c'era granché di gente, poi le Visibilia sono sempre state un po' triste anche allora. Se c'era la Luchi, bene, ma quando c'era la Cristina, mi ricordo che si arrivò, c'era la Cristina che suonava. Era esattamente come ora, quando va a fare la Visibilia all'Aquila, pettinato uguale, spiacevole, eccetera, e non c'era molta gente. E quindi io sto lì, eccetera. A un certo punto non mi vedo la Carmen Covito che arriva per davvero. E ho detto, Madonna, però che coraggio che hai avuto. E quindi lei cerca un po' di attaccare il bottone, dopo il suo punto di vista lo so dallo scritto che lei poi mi ha dato, perché poi a un certo punto arriva la Rosi, arriva la Bonomi, tutta, finalmente cambia, è vero, cioè noi appunto comincia a far festa, a ballettare, io mi metto poi un bacio con la Rosi, dopo saltello con la Bonomi, una bella serata, e Carmen Covito l'ho persa di vista. E ecco. Questa, poi l'ho rivista a Palermo una volta che andai, la Rosa mi ospitò lei, però poi non, una volta era venuta anche a Verona, però poi è rimasta un'amicizia, poi l'ho persa nel tempo, l'ho rivista una volta con la Francesca, tipo l'anno dopo, che noi siamo andati in vacanza in Sicilia, e lei ha detto, ma guarda, vi posso ospitare io a casa della mia attuale fidanzata, perché quando l'ho conosciuta non era ancora con lei, la casa della sua attuale fidanzata di allora era la casa della Titti De Simone, che non era ancora andata a Bologna, lavorava per loro, ma anche la Titti De Simone aveva 20 anni, era un po' più grande di lei, mi sa. Un anno meno di me. Sì. E quindi, ecco, questa per esempio è stata una bella storia. La Carmen Covito, poi, questo articolo che non le hanno mai pubblicato, lei proprio l'ha scritto in maniera da scrittrice, non da giornalista, e quindi appunto racconta di quando voleva comprarmi le violette e poi non me le ha raccontate. Poi alla fine tutto questo, mi hanno anche fotografata, mi hanno fatto salire su per la torretta del Cassero, che avevo paura di cascare, è venuta la fotografa. Quindi racconta un po' questa cosa e dopo mi fa tenerezza perché racconta della festa, per come l'ha vissuta lei, che all'inizio era un po' tristarella, c'era sta cosa, ma io che avevo paura a fare la tessera, perché mi hanno chiesto la tessera, non ero mai stata in un posto solo di donne e temevo che tutte mi sarebbero, magari mi avrebbero fatto le profferte, io non sapevo come comportarmi, a parte che non era una bellezza, quindi la vedo improbabile, però questo lo dico io, lei... Ma poi entrai, vidi quel clima e capì che non avevo proprio ragione di preoccuparmi, perché non erano intraprendenti, erano donne che stavano lì sempre a aspettare che le altre le invitasse. Poi dice che poi sono arrivata io e che mi avrà visto a un certo punto, poi è arrivato tutto il gruppo di Verona, abbiamo cambiato il clima, quindi mi attribuiva anche questa cosa, non ero io, era la Bonomi semmai che faceva questa cosa, e poi mi ha vista abbracciata, la definisce una giovane amica, che era la Rosi, e ho pensato proprio come mi è dispiaciuto di non averle regalato le violette ieri. La Carmen Covito poi sono riuscita a farci dare 100.000 lire per la manifestazione. Il racconto comunque io l'ho letto, era molto carino. Sì, era carino, perché era brava a scrivere. Non so se l'ho raccontato fedelmente. No, ha scritto diversi libri poi lei, poi sì. A un certo punto è sparita. L'abbiamo anche invitata al Circolo a Firenze. Ma forse bisessuale, dico, o sbaglio io? Io non me lo ricordo. No. Una roba dell'Istrice aveva scritto, come mi ricordo. Sì, perché poi era deviata un po'. Sì, sì. Era molto simpatica, aveva una vena un po' satirica. Sì. Ma lei a un certo punto era andata a mi ricordo che era spesso dal Maurizio. Ma sì, perché la bottina stagionata fece tanto successo. Sì. Poi ha fatto il film, quindi i diritti del film. E lei con quello riuscì a licenziarsi, lei faceva l'insegnante. Riuscì a non andare più a lavorare. Poi è sparita, non so. Poi è sparita, ma anche perché anche ora lei era più grande di me, aveva 80 anni, ormai aveva avuto 10 anni più di me. Quindi grazie. Sono degli episodi, per questo dico, sono tanti piccoli episodi, alcuni carini, altri spiacevoli, che però poi alla fine ti coinvolgono, perché poi figurati, poi... Vabbè, anche le feste a casa della Borghi, un altro episodio divertente. Sì, beh, la festa a casa della Borghi, ma quello finì in ospedale, sì. Quelli... perché c'era la Borghi che faceva queste feste di Natale. Quelle per le orfanelle. Dopo, ma era un fatto storico, cioè era ogni Natale la Borghi apriva casa sua, faceva il pranzo, io ci sono accapata alla fine di questa cosa, lei faceva il pranzo per quelle che non andavano in famiglia. Certo. E poi però la casa rimaneva aperta fino a sera e dopo andavano anche quelle che erano state al pranzo in famiglia. Quindi mi invitò, io quell'anno, tra l'altro la mamma non c'era, mi tiene in Repubblica Dominicana. E fra l'altro a me mi era stata rifilata anche l'Alessia, cioè che anche quella fu, io abitavo da sola in quell'epoca, ci fu una ragazzina di 18 anni e 2 mesi scappata di casa. Elena si chiamava? No, l'Alessia. Quella è l'Elena... Fava. Fava. No, questa è l'Alessia, quella che poi ha abitato anche con la Betty. Secondo me tu non l'hai conosciuta. No, no. Era una persona che, vabbè, io l'ho fatto volentieri, ma forse non... era una abbastanza stronza. Vabbè. Comunque mi ritrovai questa e me lo chiese quella che mi aveva affittato la casa in realtà. Cioè, questo qua ha 18 anni appena, io ne avevo 35 almeno, quindi... Però dice, vabbè, mi piglio sta Alessia in casa, a Natale la Borghi mi invita, dico guarda però vorrei venire con una mia amica. Dico, sì sì, non c'è problema, quindi ho detto via Alessia, andiamo a Firenze. Meno male, perché la sua madre scoprì che era lì, venne a suonare al campanello, a bussare alla porta, perché voleva ripigliarsi la sua figliola. E ce l'aveva con me a morte, tanto che quando tornai a casa mi suonò la vicina e mi disse, senta, io a me non interessa quello che lei fa, non mi riguarda, non ho mai detto niente, ma che non vengano mai più mamme a cercare a casa mia le figliole a bussarmi alla porta. Quindi scusi. E comunque piglio e vado e abitavo su in cima la Borghi, io mi metto lì, mi ricordo c'era la Nerina che stava con la Borghi all'epoca, litigarono tutta sera perché la Nerina voleva fare il sugo cosà e la Borghi diceva che non andava bene, quindi erano là che si urlavano l'un con l'altro in cucina, in questa cucinetta che era anche cucina. E poi andò a finire che mi pareva un po' noiosa la festa e io una cosa che avevo in quegli anni, una fisma che avevo, facevo lo spogliarello quando vedevo che c'era da rallegrare un po', e quindi no, ma io faccio lo spogliarello, lo feci per davvero. Quindi fu una cosa, si sconvolsero tutte perché mai più si sarebbero aspettate, non ero ancora segretaria nazionale della CGIE secondo me, ma più si aspettavano che facessi lo spogliarello e nulla. Poi stetti a dormire lì con questa Alessia, poi ballai talmente tanto con questi spogliarelli che mi si storse un ginocchio, mi facevo un male cane e non mi ricordo come si chiamasse questa della mandorla. La Francona dell'indicatore. La Francona, che lei era, dice, ci penso io perché c'era da portarmi, a Santa Maria Nuova che era lì. Ma io come faccio a scendere le scale? E quindi ci penso io, mi piglio su, io ero terrorizzata. Correva come una matta giù per queste scale, mi pare adesso era a cavallo di un cammello. Mi portò all'ospedale, lì mi aggiustarono un po', via. E quella fu lo spogliarello della Borghi, me ne piace più di uno. Io mi ricordo questo spogliarello. L'altro spogliarello fu quello che... Che imparato? Certo, avevo imparato al night. Il night si impara il spogliarelli, E quindi niente, tutto si aspettava, non mi arrivasse sta grulla a fare lo spogliarello. Per cui sì, in realtà, anche quello fu diverso. No, non combinai niente, Mi ricordo che c'era la Mirella Sandonnini, ma la Mirella Sandonnini era molto giudicata su queste cose. Si vergognò per me, secondo me, perché figurati, ero della sua associazione, quindi pensò che... Senti, ma all'inizio dicevi che in quegli anni sono successe tanti episodi, no? Sì. E, oltre a questo che ci ha raccontato, sì, appunto, così, sì, così è random, ti sto raccontando. Ludica, poi ce ne sono altri significativi. Sì, ci sono quelli più o meno ludici, come questi, e quelli più o meno tragici. Mi ricordo, ecco, un episodio che mi venne in mente, che mi colpì, fu invece a Catania. A Catania, credo nel 92, o meglio, non a Catania, ma a Lentini, che è un paesotto grande, una trentina di chilometri da Catania, era successo un omicidio di un ragazzo gay, aveva anche la testa dell'arcigay, che faceva il parrucchiere di una ventina di Sì, è famoso. Sì, si chiamava Nao. Era stato ucciso, sparato, da uno che poi ritennero essere un ragazzino. La storia che venne fuori era che questo ragazzino era minorenne, quindi alla fine fu condannato a poco niente, era il figlio dell'amante di questo. Mm. E questo era un mafioso, sostanzialmente, aveva un mobilificio. E cioè, era abbastanza chiaro anche ai parenti, eccetera. Aveva delle sorelle che in qualche maniera riuscirono a non star zitte, rivendicando la dignità del loro fratello come gay, perché lui non era un gay che si nascondeva, aveva la tessera dell'arcigay, e invece... Allora, una storia con questo invece era velato. Credo, grazie Dina, che questa sorella abbia detto qualcosa anche negli ultimi anni, una delle sue sorelle. Si chiama serie... Graziella Innao, quella che sì, era sì, più... della serie... Sì, difatti lei poi, cioè, è rimasta sempre... convinta anche di questo. Fatto sta che io dovevo andare a Catania a prescindere da questa cosa, perché le sorelle erano state invitate da Franco, che lui appunto questa cosa era bravo, c'era il congresso dell'arcigay, le aveva invitate a Bologna, quindi loro erano state invitate a parlare di questa cosa, in modo da dare anche rilievo, perché nel frattempo andava avanti il processo, cioè alla fine rischiava che non pagava nessuno questo. E loro dicevano che comunque era importante andare, eccetera. Io ero l'addetta ai circoli e quindi venni mandata a Catania. Nel frattempo il circolo di Catania era un casino, è sempre stato un casino. In quel momento lì c'era uno dei vecchi che praticamente aveva occupato l'arci, diceva che lui era l'arci gay, ma non diceva neanche di essere gay. Nel frattempo c'era altra gente che voleva fare l'arci gay, però era coperta da questo. E quindi avevano contattato il nazionale, quindi io andai e commissierai il circolo, cioè andai con le tessere, detti le tessere. Questo qualcun altro era Massimiliano Scandurra, che dopo è mezzo rincoglionito, ma c'era Massimiliano Scandurra in quel giro, il suo fidanzato, Briciolina faceva parte di quel gruppo, che poi è quello che si mise con Gianni, quindi c'era questo contesto, ma anche loro 10 anni di meno. E fra l'altro Massimo Scandurra era amico di Innao, lo conosceva, di quello che era stato ammazzato. Quindi quando andai io, che venivo dal continente, ero la segretaria nazionale, cioè con quel meccanismo che si diceva prima, mi ricordo vennero le televisioni, eccetera, e disse: guarda, ci terrebbero tanto, vi avevano invitato, che andassimo a trovare Alentini. E quindi andai a trovare Alentini. Mi ricordo, mi fece impressione, loro avevano una gioielleria e... cioè, mi accolsero come se io fossi stata la Madonna. E soprattutto mi colpirono, a parte le sorelle, i genitori. Avevo questi due genitori anziani, anche il babbo aveva più di 60 anni, un vecchino proprio, vedi, quelli, no, non tenuti, contadino tutto storto, eccetera, che mi ringraziò piangendo per essere andata lì. Cioè, no, mi colpì, perché proprio pensai, cioè... non avevo fatto niente, cioè di come alla fine avevo legittimato, e loro legittimavano l'essere gay del figlio, trovali te degli altri. Molte fecero le sorelle, ma i genitori anziani, che io pensavo, sì, almeno, dicevo con Massimiliano, cioè, non è che mi sputano, perché cioè già a questo ora gli va l'arcigay in casa, un conto sono le sorelle, e quindi ero un po' andiamo a vedere, invece guarda, non mi sarei mai aspettata questa cosa. Dopo poco, cioè, a me mi colpì tanto questa cosa, di lì a non tantissimo, c'era il 28 giugno, non c'erano ancora i Pride, quindi era prima il 94, poteva essere il 91, il 92, e mi ricordo che a me questa roba mi era rimasta qua, e quindi pensai, il mio 28 giugno fu di scrivere una lettera aperta a questo che in realtà per lavare il suo onore aveva mandato il figlio minorenne ad ammazzare il suo amante, perché loro mi avevano fatto vedere le foto di quando erano in mare assieme, cioè si capiva che avevano una relazione, no? Che avevano scopato due volte da anni, cioè avevano tenuto tutte le foto i genitori. Questo era uno che andava a mangiare a casa sua, dopo questa vicenda non l'aveva mai più visto. Cioè lui in qualche maniera, a lui non era successo niente, erano tutte maldicenze, in realtà l'avevano ucciso per questo, per ripulire l'onore. E quindi ho scritto una bella lettera aperta, perché un'altra mia mania, oltre a quella dei librini, sono le lettere aperte. E invece questa lettera aperta ha velato, chiamandolo il gay senza onore. Cioè dove dicevo che l'orgoglio, quello che noi chiamiamo orgoglio, siccome tutti ce l'avevano di cosa siete orgogliosi, eccetera, era abbastanza simile a questo concetto dell'onore, di avere l'orgoglio e l'onore di essere quello che si è. E io gli dissi che lui era, scrissi, un omosessuale senza onore, che pensai che quello era proprio offensivo. Oh, l'Unità me la pubblicò pressoché integralmente e mi ricordo che mi telefonò la sorella Innao dicendo: no, guarda, ti ringraziamo tanto, bellissima la lettera, ci ha fatto tantissimo piacere, abbiamo pianto, eccetera, fa, però non venire in Sicilia per un po' perché ti ammazzano. E io dissi, vabbè, poi non è che andai subito in Sicilia, ma poi sai, poi la gente si dimentica, vabbè, poi sono andata in Sicilia e non mi hanno mai ammazzata, perché dopo è gente senza onore, cioè io ero forte, con la gente li ammazzi deboli, cioè chi ritiene debole, se tu sei forte, a te non ti fa niente, io ho capito sta roba. Senti, e mi dette soddisfazione. Cioè, una piccola parentesi su questo, hai detto che oltre ai librini avevi la maniera di scrivere lettere aperte. Ne vengono in mente altre? Una di cui mi vergogno, ma tanto, non ne avevo mai risposta, me la cagavo tutti, me la trovai io dopo, ma la spedì a Madre Teresa di Calcutta, che non avevo, era venuta in Italia, pensai, ora scrivo anche a Madre Teresa di Calcutta, dicendo che deve prendere posizione, visto che portate una sorina buona, e gli scrisse tutta una roba, la mandai in giro, eccetera, non mi cagò nessuno. Questo non sapevo nemmeno io. Cioè, dopodiché non è che l'ho molto diffusa, perché credo dopo averlo fatto quasi subito mi vergognai un po' di sposare. Sto un po' esagerando, la prossima scrivo la Madonna, che tanto uguale. Ecco, no, quelle l'ho fatto di più dopo, però sì, già allora evidentemente avevo questa predisposizione per le lettere aperte, perché appunto Madre Teresa di Calcutta, però questa qua, dai, la scrivesti poi ora, molti anni dopo, la lettera aperta dopo il tuo arresto a Bologna. Sì, ma poi, ma quel periodo lì scrivevo tante lettere aperte. Che si intitolava? Non calpestare la vietato calpestare la aiuola. No, ma anche quella, che poi quella se la pidarono tanto con me, mi voleva anche pubblicare coso, Auges su Repubblica, mi ha detto: ma l'hai mandata ad altri? Ho detto sì e no, allora non ci interessa. Quella Teresa di Calcutta come l'hai intitolata, te la ricordi? Quello niente, non ero molto, secondo me non ero molto ispirata, la pensi così perché non c'è un cazzo da fare. No, invece questo è quello della carnevalata del primo Novato. No, il primo Novato è il Pride del 2007, che l'Avvenire scrisse un articolo brutto, brutto, brutto, che era una carnevalata coi cappelli, con questo. E secondo me quella lettera è bella, ora tanto la ricordo. Io mai ricordo per niente, neanche l'avevi fatta. Sì, e quella fu proprio bella, me la pubblicarono parecchio in giro, eccetera, perché, e molti anche si incazzarono perché paragonai loro appunto che dicono che facciamo le carnevalate, e paragonai la carnevalata che loro facevano fare a me, che ero una bambina, quando mi vestivo da sposina alla prima comunione, e la loro Santa Rosalia. Toccai Santa Rosalia e tutti mi mandavano le cose, Santa Rosalia non si tocca. Quello mi venne bene. E ogni tanto io scrivevo queste lettere aperte. In realtà in quegli anni il lavoro era, cioè praticamente ti riposavi quando lavoravi. Ma sì, ecco, io mi chiedo come ho fatto a non essere mai licenziata. Ci andavo anche, sai. No, ma non mai. Cioè, sembra che non ci andassi, invece ci andavo. Più o meno. più o meno, perché poi... Che a volte sparivi. A volte sparivo, allora la Sandra mi cercava finché non mi trovava e poi in qualche modo mi coprivano e poi tiremi in naso. Però a volte lavoravo anche, quando c'ero lavoravo. E tu sei stata comunque in quegli anni sempre nella stessa scuola. Sì. Fino al 96. Fino al 96. Sì, okay. Sempre nella stessa scuola, con lo stesso preside, con questa Sandra, con tre quarti degli insegnanti che mi hanno tolto il saluto e con ogni tanto i ragazzini di terza media che venivano a dirmi l'abbiamo vista in televisione. Io la prima volta che vennero, gli smusai, gli dissi sì, perché tu cosa guardi in televisione? Qualcosa in contrario? No, no, scapparono, vennero due volte e non viene più nessuno. Cioè, basta un po'. Nel senso, mi sentivo, non lo so, nel mio essere una persona timida, insicura, eccetera, avevo creato questa immagine che dopo spendevo un po' nelle varie... Era un'immagine, era una realtà, era una recita, quello che tu vuoi, però mi aiutò molto, perché alla fine, avendo anche questo distacco fra me, proprio io, e me personaggio, a volte me personaggio era invasivo parecchio, però rimaneva me personaggio e a volte usavo il me personaggio anche per risolvere delle questioncine che magari erano mie, però era sempre un uso. Io credo mi abbia un po' salvato questa consapevolezza che in realtà era tutta una recita che io avevo scelto di fare, no perché ero malata e volevo recitare, ma perché avevo un obiettivo e ho pensato che a recitare questa parte potevo raggiungere degli obiettivi e credo anche di averlo fatto poi, perché comunque una serie di cose le ho fatte, magari non era esattamente quello che volevo e quindi sì, sono tanti episodi che ora ho raccontato, i primi che mi sono venuti in mente, ma cioè poi alla fine possono essere più o meno significativi, però era tutta così la mia vita alla fine. La volta che andai a un dibattito che c'era, mi ricordo, era una cosa credo alla Camera, una saletta della Camera, non mi ricordo su cos'era il dibattito, era una par di donne e mi ricordo anche lì io rimasi, cioè, quelle cose che ti danno soddisfazione un po' ti spaventano, dici ma io, proprio a me mi viene a dire ste robe, ma... E non mi ricordo su cosa fosse, era un po' quegli anni dove c'era la Betty di Prisco, quindi a me mi coinvolgevano un po'. Poi un'altra che ha cercato di coinvolgermi un po' su queste cose istituzionali, a un certo punto fu anche la Toniollo, che io però non sopportavo. E c'era la Dacia Maraini, quindi io intervengo, poi il mio solito intervento da lesbica. E poi la Dacia Maraini, cioè io la Dacia Maraini avevo una gran considerazione, rispetto, mito giovanile, eccetera, quindi figurati, cioè già vederla mi ritenevo onorata, ho visto la Dacia Maraini, venne da me e mi ringraziò. Venne fa, grazie per le cose che fai che io non sono mai stata capace di fare. Io, cioè sono quelle cose, ecco queste sono le cose belle, che dopo io anche le rimuovevo abbastanza, perché avevo paura di montarmi troppo la testa, cioè io ero terrorizzata dall'idea di montarmi la testa. Forse un'altra cosa, potresti raccontare la tua tournée estiva nel Festival dell'Unità? Con la Carla Corso e Elena Melina, la Susie Bledi e Patrizio Roverso. E credo di aver fatto due stagioni con la Betty segretaria. Sempre con 4 anni. Sì, sì, sempre tutto lì. Sì, perché, capito, in qualità di segretaria nazionale... Raccontala. Certo che Grillini dispiacque quando io me ne andai, perché io mi sorbivo una fatica, era tutta promozione per la CGE. Allora, la festa dell'Unità, erano anni in cui la festa dell'Unità erano ricche, belle, importanti. La prima qua a Bologna c'era stata la festa nazionale. Susie Bledi e Patrizio Roversi, ma Susie Bledi in realtà, avevano pensato a questo spettacolo di intrattenimento che si chiamava, credo, Lezioni di Sesso, sì, credo. Sì, sì, lo facevano, sì, me lo ricordo anch'io. L'hai sentito anche sì, tu? Sì, lo ricordo. Non so se sia andato avanti ancora sì. E se l'abbiamo fatto da altre parti, ma nacque così. E queste Lezioni di Sesso cercarono, allora funzionava che c'era Susie Bledi, era la preside, Patrizio Roversi era il bidello, che suonava le campanelle, eccetera. Poi c'era quella che era Elena Velena, che divenne Elena Velena, che si chiamava ancora Giampi Velena. Giampi Velena, nonché ora Elena Velena, era uno del giro della Bologna Bene, di cui faceva parte anche Patrizio Roversi. Era un ragazzino. Ma lui era il primo produttore di CCP. Sì. Quindi sì, ecco, non è che proprio fosse, perché dopo è impazzita anche Elena Velena. Ma già allora a me diceva che lui era lesbica, quindi vabbè, però io non sono mai intervenuto. Aveva già la fidanzata che ha avuto anche dopo. Maya. La Maya, aveva già quella. E quindi nulla, lui era il primo che faceva lo spettacolo e lui si era pensato questa cosa del sesso virtuale, perché era i primi tempi in cui si poteva pensare a questo. Quindi lui aveva una specie di tutina che si metteva con dei guanti, eccetera, faceva tutte queste cose. Ma era anche carino, io non me lo ricordo bene, perché intanto che lui faceva questo, io mi dovevo far mente locale sul mio. Ma poi c'era la Carla Corso, che viaggiava sempre in coppia con la Piacovre, a cui ora ho passato il numero, l'ho risentita, quella lì che è della tesi, perché vuole risentire anche lei, con la Piacovre. La Carla Corso faceva... una lezione di igiene, tipo questa lezione era il comitato diritti delle prostitute del Lucciole, nacquero come Lucciole, e quindi lei aveva una borsina tipo le borsine dei rappresentanti, dove c'aveva un po' di vibratori, vari tipi di preservativo, e lei era brava a gestire questo, a fare le seghe alla cosa, insomma, sai, la gente era ridanciana, ma nello stesso tempo non era mai volgare, era bravissima, secondo me. Le insegnava proprio come lezioni di igiene, quindi la metteva su questo. Poi a me non mi aveva detto cosa fare, inventati qualcosa. Io non so cosa inventarmi, non è che è proprio il mio. Mi venne questa idea, sai cosa faccio? Faccio Platone. E quindi io facevo, mi riferivo al mito di Platone, glielo raccontavo un po' di questo Platone che fece, di Zeus, che fece questo essere pressoché potentissimo, perfetto, quattro gambe e quattro braccia, ma era diventato così potente che gli minacciava il trono, e quindi decise di dividere questi omini, e li divise così, un po' a cazzo. E quindi li divise, e dopo ogni metà cercavano la propria metà, e nella vita è per questo che la cerchiamo. Allora lì andavo, c'avevo tutti degli spaghini, delle fettuccine rosa, azzurra, e allora facevo poi questo che divide, chiamavo la gente, li mettevo assieme, metti due donne, due uomini, un uomo, una donna. Prima li legavo assieme, poi li rimescolavo, ognuno poi col suo cosino andava a cercare quell'altro, quindi questa era le lesbiche, queste geniale, erano... È geniale! Ecco, e facevo sta roba, almeno avevo trovato il mio. Insomma, sta roba, si fece questo cast, dove io partivo, sempre in macchina giravo in queste cose, con Betty al seguito, la quale Betty, siccome io non riuscivo neanche a farmi dare i rimborsi, io dicevo che la Betty era la mia segretaria. Quindi quando arrivavamo io volevo anche un gettone di presenza e rimborso spese, mandavo la Betty perché è più facile se uno lo fa. Bellissimo. E quindi avevo definito il mio gettone di presenza, che poteva essere 200.000 lire, non sono mai stata un'esagerata. E a un certo punto, una volta, si fece qualche vario spettacolo, in particolare mi ricordo uno a Poggibonsi, che ci si trova là e si chiacchiera. E quindi io chiedo, ma voi quanto vi danno? Niente, qua io vengo, chiedo se ho colleghe e mi pago le spese, vado a battere un po' qua in zona e mi pago le spese così. Ma anche io mi faccio dai soldi, davvero, come fa? Dico che lei è la mia segretaria, e quindi da quel momento la Betty era diventata anche la loro segretaria e quindi pigliavo i soldi per tutte e due e poi ce li dividevamo. E quindi poi andavamo a battere insieme, a battere, io non è che battevo, cioè faceva vedere, lei conosceva tutte le prostitute, perché non è che una fa la prostituta, va a battere nel luogo di battuaggio, deve essere ospitata da una del posto, quindi lei conosceva qualcuno dappertutto, specie a Reggio Emilia, nel nord, quello più in giù credo sia stato Poggibonsi, e quello andò avanti un po', a fare le lezioni di sesso, ma anche quello era una roba di fuori, perché non è proprio il mio questo, io non è che sono una teatrante, non ho facilità, quindi... Quella era molto una forzatura, perché io tendo a essere prolissa, vado bene a fare discorsi un po' così, ma fare questa lezione di sesso mi faceva anche fatica, ti dirò. un'altra, oh, piaceva, quindi io ci andavo però per le 100.000 lire. Così io e la Betty si stava bene, si tornava, si mangiava e eravamo contente. Ecco, questo. Poi, ecco, sono tanti episodi così, cioè tutti riuniti dall'arco di 4 anni. Però, che alla fine diciamo, ti venga la noia. Però siamo passati invece al ludio bello, divertente, al lato luminoso, per tornare invece all'inizio, quando abbiamo concluso prima, no? Tu dicevi che comunque sono, cioè, che alla fine non stavi bene. Quando raccontavi dell'ultimo periodo, dicevi io comunque non stavo bene. Allora, prova a immaginarti a fare una vita così, per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi, per 1 anno, per 2 anni. Lavorando, perché poi prima sì, se lavorando. Non avessi lavorato forse... Sì, beh certo, infatti provai in tournée, anche... Eri un po' in tournée. Sì, quasi, cioè, provai anche a fare quell'esperienza, perché Grillini voleva convincermi a licenziarmi, che tanto mi assumeva l'Arci, e io pensavo, se faccio sta roba qua, Grillini poi mi fa fare quel che vuol lui, io voglio fare quel che voglio io, e mandarlo a cagare, qualora mi venisse voglia di farlo, cosa che poi feci. E quindi io non cedetti mai su questo, alla fine mi rassegnai a questo tentativo di chiedere 1 anno di aspettativa senza retribuzione, che tanto mi dettero. Io rientrai 2 mesi prima, perché a quel punto andai a vivere mezza Roma, a vivere in prestito destra e sinistra, 3 giorni alla settimana, 3 giorni alla settimana a Verona, quando ero a Roma andavo ogni volta anche in un altro circolo, quando ero a Verona andavo anche una volta in un circolo ogni settimana. Cioè io era peggio che andare di notte, ancora un po' era meglio andare a lavorare, così almeno stavo in una città e basta. Ma e andavo. Vivevi a Roma, raccontaci un po'. Allora, a Roma fu che una anno cosa... era? Era il 92. 92. A Roma era una cosa faticosissima la mia vita, perché allora il primo posto dove andai a vivere fu a Torre Vecchia. A Torre Vecchia, dove c'era una tipa che secondo me era origine Cli, perché a Roma io a un certo punto ero venuta. Lei lo so io, lei è stata nel fuori, dopo il fuori è stata nel Sara. Cli. Ah, non la Sara. No, la Sara. Conobbi la Sara anche. E fu la Sara che conosceva questa e mi trovò questa sistemazione, che era una sua amica, che faceva l'infermiera, era una friulana che era scappata dal Friuli per viversi e aveva conosciuto il Cli, eccetera, un po' di mondo a Roma, perché altrimenti, a cui era molto grata. La Sara non ho mai capito perché mi aveva adottata. Ora, mi aveva adottata, dopo ho capito anche perché, quando si dichiarò, mi dispiace anche, così si è persa la Sara. Però questa si era messa con una francese, si era talmente innamorata, aveva anche la sua bella età anche lei, che aveva deciso di fare questa prova, di andare per 3 mesi, chiedere un congedo, anche lei non so che cosa, dal lavoro, e di andare a vivere dalla francese che stava dalle parti di Toulouse, non so, da quel parti lì. E quindi aveva questa casa libera e me la affittò a me. Che, per carità, a parte che vivere in una casa d'altri, era una anche tutta perfettina, eccetera, avevo sempre paura di far danno, ma era Torre Vecchia, era sul raccordo anulare. E a me mi trovarono, cioè si fece questo scambio, io ero in segreteria nazionale dell'Arci, in quel periodo fu quando cominciarono a lavorare sulla legge sul volontariato, che non c'era nulla all'epoca. La legge sul volontariato, l'Arci voleva esserci dentro, ma non è che fosse propriamente una legge fatta su misura per l'Arci, era molto più fatta su misura delle associazioni cattoliche. Le uniche realtà Arci che potevano far parte della legge volontariato erano una l'Arci Gay e l'altra l'Arci Ragazzi. Quindi a loro gli interessava questa storia e fecero, per riunire un po' queste esperienze e essere competitivi su questa cosa, Arci Solidarietà. Questa cosa la fece quello di Venezia, che poi è morto, poi è stato presidente dell'Arci, come si chiamava Elena, tu lo sai? Tom Benettollo. Mm, sì, sì, sì. Che al tempo non era, cioè era ancora uno che faceva l'Arci a Venezia. E quindi io mi ci misi un po' anche su questa cosa. In cambio l'Arci ci dette una sede, che era un appartamento che era vicino a Piazzale Flaminio, dove piano terra, mi pare c'era la sede dell'Arci Ragazzi, poi c'era la sede dell'Arci 9, a quel piano lì, non so cosa avessero dentro prima, decisero di darlo all'Arci Gay. Quindi io mi trovai catapultata da Verona a Roma, in questo posto a Torre Vecchia, e con questa incombenza di creare l'Arci Gay a Roma a partire da quattro mura, così nel nulla. E quindi io mi ci impegnai anche, per come potevo essere capace io, però cioè lo feci, creai l'Arci Gay, creai il mostro, lo feci perché comunque mi ero impegnata a farlo, servendomi di tutti gli strumenti che potevo mettere in campo, questo in tre giorni a settimana. E in effetti riuscì anche ad aggregare della gente, un po' di tutto però, un po' a cazzo. E quindi io andavo lì, non c'avevo manco il telefono, riuscì a convincerli a lasciarmi un vecchio telefono di Arci Ragazzi, perché pensai, se non faccio un annuncio che c'è l'Arci Gay a Roma con un numero di telefono, come cazzo fa ad arrivare la gente? Metto in piazzale Flaminio col tamburello. E così feci. Poi un po' alla volta portai via due sedie da una parte, l'arredai pure, era una roba fuori di testa. In realtà quello che cominciarono a telefonarmi quando venne questa cosa furono quelli che pensavano che l'Arci Gay avesse potere. E mi ricordo ancora che poi lui è stato per anni nel movimento gay e non so cosa abbia fatto, ma io lo odiavo e con me non c'è stato verso. Telefonava compulsivamente tutti i giorni tale Palumbo o Palumba, che era uno psicoterapeuta gay, che voleva collaborare con l'Arci Gay, voleva che io gli mandassi i clienti. Questa era la sua richiesta. Ma lui dopo, guarda che ha collaborato con tutte le associazioni possibili e immaginabili di Roma, prima o dopo ce l'ha fatta, ma non con me. Quindi io trovai, appunto, convinsi la Sara, che non so come lei sia venuta fuori, anche lei col progetto. Sara Arci degli Santi, come si chiamava lei? Eh? Non ricordo, vabbè. La Sara? Mm. Falconi. Delli Falconi. Delli Falconi. E lei fu la prima persona. Quella, sai che si pubblicò il libro anche al Circolo di Vignette? Ti ricordi il libro del Blee di Vignette? Ecco, era di questa. E lei, sostanzialmente, lei stava con una, loro vivevano da tutt'altra parte, in fondo all'Eur, giù di là. E comunque la convinse a fare la presidente del Circolo di Roma, riuscì a creare il Circolo di Roma trovando pure la presidente, e un acquisto del Circolo di Roma fu una che ora invece è al CLR, che è la Rosina. La Rosina era giovanissima, anche lei ventenne, quindi alla fine finì lì all'inizio. Poi certo quel mostro che è diventato l'Arci Gay di Roma per forza se n'è andata ed è finita al CLR. Ma io mi ricordo con tenerezza la Rosina, perché... La Rosina, scusami, non è Rosy. No, la Rosina è una del gruppo del coordinamento lesbia romane. Una la tassista, la Rosina. La tassista, sì, la Tassinara. La Tassinara. Comunque lei aveva 20 anni, era una ragazzetta, e una cosa che mi dissero subito a Roma era non organizzare riunioni la sera, perché a un certo punto chiude la metro e la gente sta fuori, cioè Roma non è come fare l'Arci Gay a Verona o anche a Bologna o anche a Firenze, c'ha delle distanze, per cui cioè, non è così semplice. Tra l'altro c'era pure il Mieli, quindi io non so come mi avventurai, perché erano strani che Grillini voleva creare un Arci Gay a Roma. Appena ci riuscì io, creando un mostro, ma ci riuscì. Venne la Rosina e lei veniva e poi prendeva la metropolitana per andare a casa, e un giorno la buscata dei fascisti. E arrivò tutta rotta, le avevano spaccato la faccia, il labbro, un dente, tutta massacrata. E disse, no, perché fa, mi hanno individuata come una compagna. Fa, e fa, mi hanno buttata per terra, io ho paura mi buttassero giù dalla metro, ma mentre loro mi menavano io cantavo avanti popolo e pensavo avanti popolo, bandiera rossa, e ho resistito. Era tutta orgogliosa di questo. Non l'avevano individuata come lesbica, l'avevano individuata come compagneria sostanzialmente, quindi già allora c'erano i fasci che pestavano la gente. Beh, anche prima. Eh? Anche prima, sì, ma lì era un'epoca in cui quasi pareva che fosse stato prima, no? Era 92. Comunque, ecco, fece anche questa esperienza, perché dopo 3 mesi questa tornò, io rimasi senza casa, allora finì ospite della Sara degli Falconi, della sua compagna, perché a un certo punto, verso la fine, che ormai già io non ne potevo più, feci un incidente, distrussi mezzo la macchina, tutto, non ne potevo più, non era il mio, io non volevo fare quelle cose, e mi si dichiarò che era innamorata di me, ho pensato, Madonna, e l'aveva detto anche alla sua compagna, la proprietaria di casa, la Sara di Eri Falconi, e l'aveva detto anche a quell'altra, mi ospitavano loro, io non so che situazione di merda. Tutti ti volevano, Graziella. E tutti mi volevano, guarda, tu, davvero, uno non ci crede, io non... E tutti mi volevano, anche la Sara di Falconi, mi dispiacque perché lei era una brava persona e forse ho pensato io, chissà cosa ho fatto, magari ero stupidina, non ho mai fatto niente, però è anche vero che ero abbastanza inconsapevole di queste dinamiche, certo, forse mi sarei dovuta accorgere, cioè scusa mi trova a casa, mi prende a casa, perché non ti viene qualche dubbio, però vabbè insomma quello andò così. E quindi niente, io rientrai sul lavoro, mi ricordo avevo l'aspettativa fino a novembre. Io pensai, sai, io il primo settembre rientro. Addirittura in anticipo. Sì. Sì, perché pensai, senti, cioè posso rientrare a novembre, ma a parte cosa faccio due mesi, cosa mi cambia? Parto con la scuola già iniziata, riprendo a lavorare il primo settembre almeno. Faccio meno fatica anche a rientrare. Senti, ma visto che siamo la scuola, nella scuola nel frattempo, perché te, cioè, voglio dire, eri molto cambiata rispetto a quando ci sei entrata dal punto di vista della visibilità, dal punto di vista, questo secondo te ti ha cambiato in qualche modo anche lo sguardo degli altri? Sono cambiate le tue relazioni all'interno della scuola? Però mi ha rapportata. Anche se avevo metà insegnanti, che metà insegnanti non mi salutavano, ma a me non mi, cioè era un problema per loro, io ci avevo chiaro, che era loro che erano imbarazzati con me. Io anche no, io li salutavo un giorno, gli scappavano via. E avevo trovato un contesto dove comunque quelli con cui mi relazionavo io, in particolare questa Sandra, per quanto complesso fosse la relazione con lei, e il preside, perché io su questo devo dirlo, era un democristiano. Tra l'altro poi quando si ruppe la DC lui passò al CDU, quindi neanche di sinistra, lui era preside lì e sindaco di Affi, che era un altro paese, che era dove c'era la base americana, perché di quella base lì me l'ha raccontato lui come funzionava, perché una volta c'era entrato, cioè lì avevano le testate nucleari, però non si doveva dire, non si doveva sapere. E lui, mi ricordo che quando lo venne a sapere, lui mi chiamò lui e mi disse, guardi, io non ho nessun problema, lei, io qua non l'ho mai vista, né far discorsi né altro, lei quando viene qua fa il suo lavoro e quindi se qualcuno ha qualcosa da dire sappia che per me non è un problema. E gli disse, grazie, buonasera. E non fu mai un problema obiettivamente, lui non cambiò minimamente. Io credo che alla fine quello che mi fu riconosciuto da lui e da quegli insegnanti che invece mi salutavano, e fu che era un contesto dove la stragrande maggioranza non aveva il coraggio di farlo, di dirlo esplicitamente. Mi fu riconosciuto il coraggio che avevo avuto di espormi e contemporaneamente l'altra cosa, per essere nel Veneto profondo, che io, ecco, di me tutto potevano dire via che io fossi esibizionista. È vero che poi magari andavo in televisione, però non è che sono cambiata da prima o dopo nelle mie relazioni, che allora dopo mi sia sentita libera di fare la battuta o vergognata di farla se dovevo farla, o cioè ero tranquilla. Non so io dove ho trovato poi questa tranquillità, perché non era così scontata. Io credo che sia stato una serie di piccoli eventi, di piccole circostanze, di piccoli incontri, cioè che comunque mi hanno rafforzata. Certo poi stavo male, ma stavo male per un motivo molto banale, che ho vissuto per anni al di sopra delle mie possibilità fisiche e mentali di conseguenza. Cioè tu non è che puoi vivere essendo ubriaca tre sere su sei, andando a lavorare comunque, è vero, come dice lei, a volte non ci andavi, grazie, a volte non ce la facevo e non avevo neanche il coraggio di darmi malata, e quindi peggiorando la mia situazione psicologica, no? investita dal senso di colpa, mi infittonavo. Cioè, quindi che succedeva quando non avvertivi che eri malata, che dicevi? C'avevo da sperare in bene. La Sandra spariva, io ve lo dico per quando io posso stare a Verona, cioè, a volte lei per dei giorni non andava a lavorare e non telefonava, io passavo il tempo a dire grazie alla telefona, grazie alla telefona. Però allora ti volevano bene. Sì. È che mi voleva bene. Se avessero voluto far fuori mi facevano fuori. Ma non mi facevano fuori, cioè, quante volte, fin da subito. Io non telefonavo la Sandra, diceva che fine ha fatto la Graziella. Io devo dire che le lesbiche italiane devono fare una monumento anche a questa Sandra. È vero. Cioè, perché la Sandra ha avuto un ruolo questa volta. A noi ci sta simpaticissimo. A me mi stava simpatica, l'unico problema è che pensava fossi, che c'aveva questo problema che io ero meridionale. Sì, è vero. No, la prima volta che non avevo detto che c'era lei a casa, mi disse, ma no, ho telefonato a casa, mi ha risposto una meridionale. No, perché? In questo senso. Poi se la vedevano era ancora più meridionale, perché un po' scuretta. Era di Potenza, del resto. No, oscura, c'era questo problema oscura. Sì, quindi, sì, il problema era un po' questo. Il presto te non l'hai mai conosciuto. No. Ma la Sandra l'ha conosciuta. Perché la Sandra ci sta simpatica. Ora, c'è un po' da... Sandra Odiosi si chiamava. Ma lei aveva 5 anni più di me, era 49, mi ricordo. Però la Sandra, secondo me, nella sua vita, come la racconti, ci deve aver avuto qualcosa che penso ha anch'io. Fatto sì che lei sì. ti prendesse in simpatia. Sì, sì, sì, lei, ma lei fin da subito, prima di sapere questa cosa, perché io la prima volta andai lì a fare una supplenza, ancora nell'84, che non era ancora andata alla Sighei, secondo me, quindi era di là da venire, io non dissi nulla, come non avevo detto nelle altre scuole, lei mi prese subito a ben volere, secondo me perché lei era una persona abbastanza conflittuale, nel senso lei voleva fare come voleva lei le cose, io le facevo fare, non ho mai avuto l'atteggiamento di dire no Sandra, qua comando io, e lei credo che invece abbia sofferto di aver avuto magari segretarie che andavano lì a fare le capette, lei era l'applicata e così via. Invece trovo me, ero più giovane di lei, quindi certo, era lei che comandava, cioè uno che veniva da fuori pensava che lei fosse la segretaria, certo. Ma per me non era un problema, tutt'altro, cioè non avevo bisogno di avere questa identità. E guarda che io ho fatto un lavoro ancora più di quando poi siamo diventati di SGA, che almeno avevamo anche un po' di responsabilità, ma quando eravamo semplici segretarie, ma che avevano questa identità? Impiegate. Ah, ma loro erano le segretarie, come possono stare le segretarie della Camera? Cioè, sì, sì, sì. E quindi con le applicate di segreteria facevano le padrone, anche perché era gente spesso molto ignorante, finita nella scuola magari per... così casualmente, perché conoscevano qualcuno, molto si entrava per conoscenza, quindi io quando entrai invece ero figlia di nessuno, venivo dai miei regolari graduatorie, dai miei concorsini, non sapevo neanche per nulla all'inizio, io andai lì che avevo poca esperienza, quindi molto me l'ha insegnato lei e quello che imparavo poi lo facevo, cioè facevo un po' quello che lei mi diceva di fare tante volte. Quindi è vero, lei spesso faceva fare le cose che a lei non piacevano, ma tanto a me piaceva fare i conti, quindi lei invece no, lo odiavo, lei piaceva di più chiacchierare, intrattenere la gente, a me faceva solo un favore, quindi veniva i genitori, ci parlava lei, dava lei tutte le indicazioni, e io intanto stavo lì con la calcolatrice a fare i conti. Fare i conti. Sì, io preferivo, e lei probabilmente... Io ero la ragazzina, perché quando sono andata lì la prima volta avevo neanche 30 anni, certo. E quindi a parte lei ne aveva solo 5 più di me, però sai, magari fa la differenza, io dimostravo anche meno anni a quell'epoca di quelli che avevo, lei invece aveva anche poi un fisico un po' robusto, quindi un po' ne dimostrava qualcuno in più. Quindi io me la ricordo come somigliante alla Schio. Sì, ah, sì. Sì, quel genere lì. Un po' burbera, sì, sotta, un po' sì. Di presenza. Sì, quindi sai, aver magari una ragazzina che va lì, gli dà gli ordini, magari di fronte ad altri, no, per lei sarebbe stato un problema. Invece trovo una come me, che ecco, si è accordato, ma ci si accordava, insomma. Ci si accordava, e soprattutto io non so dare ordini, quindi non ci provo neanche, cioè bisogna proprio che sia costretta a dire no, guarda, devi dire a quella di fare quella cosa, ma non è che a me piace di dire alla gente devi fare questo, se posso evitarlo evito, non c'era bisogno. Quindi sì, lei su questo mi protesta sempre, per questo non perso il posto, secondo me, perché io sono sempre stata un disastro a scuola. Capito, facevi tre visite contemporaneamente. Sì, sì, quindi era, sì, cioè per questo poi stavo male, non è che ci fossero io. Poi scrivi gli articoli, fai le interviste, vai nei circoli, sì, vai ai convegni, vai ai cose. E l'arciche di Verona, e la fidanzata, e l'amante, fai tardi, e bevi, e cose. E bevi, vai a lavorare senza passare dal via. Infatti, cioè, fallo qualche anno sta vita. Cioè, quando io e te abbiamo avuto un rapporto più personale, te eri una persona finita. Sì. Cioè esaurita, nel senso di esaurita, sì, anche fisicamente. Sì. Fisicamente, psicologicamente, cioè non reggevo più niente, cioè non... Beh, ma insomma, era un... Infatti lei mi vide, cioè quando seppe un rapporto più personale, fu la sera in cui io mi dimisi, io ero distrutta, penso che piansi tutta notte, cioè trovai lei, piansi con lei, cioè ero quella lì, cioè e tolsi la maschera, cioè... Io in quel momento lì tolsi la maschera e venne fuori tutto. Cioè, io fino a quel momento, per quanto stessi male, avevo sempre avuto questo senso di responsabilità di dire io, finché sono segretaria nazionale dell'Arcigay, anche se sto male, anche se vado fuori testa, non si deve sapere, devo gestirmelo, devo fare in modo che non esca. Io ho fatto tutto questo per dare l'immagine, quell'immagine, per recitare quella parte, non mi posso far ricoverare in psichiatria adesso, farò dopo. Io quello pensavo. Cioè io ho fatto un periodo che lei non lo conosceva ancora, ma era il periodo in cui frequentavo la Betty, che ho fatto l'Hospital Day. Andavo tutti i giorni, mi ci portava la Betty a Borgo Trento, stavo dalla mattina alle 10, e poi tornavo a prendermi verso le 4 e 5 del pomeriggio, e io stavo là, a flebo di enna, di vitamine, di a flebo, per ripigliarmi un po', ho fatto penso 15-20 giorni così di flebo, e poi mi sono rimessa e ho ripreso a fare la stessa vita, però, quindi, cioè, finché non sono riuscita ad andarmene, e non è che dopo si sia risolto in 448, ma in caso che dopo sono stata male ancora, cioè io, che non sto più male da quel punto di vista, da quando sono andata a vivere a Bologna non sono più stata male, però ho anche smesso di fare attività. Ma non ho smesso per quello, però non mi sono più stancata. Cioè io non reggevo più quella stanchezza, anche il periodo di Daphne, poi il periodo del social forum, cioè io ero sempre al limite della mia stanchezza, che già era tutto un livello diverso di stress, era uno stress come gli altri, ma in realtà poi una volta che tu ti esaurisci, non è che dopo ritorni chiari come prima di essere esaurita, cioè progressivamente è come dire tu ricarichi le pile finché non si ricaricano più. Quindi ogni volta ci mettevo di più, se prima dopo una spacchinata così bastava che dormissi un giorno, non andavo a scuola un giorno in qualche modo, il giorno dopo ero in grado. E progressivamente un giorno non mi bastava, non mi bastavano due, non mi bastavano tre, non riuscivo più a rimettermi in piedi, ma quando dico a rimettermi in piedi, nel vero senso della parola, ad alzarmi dal letto, ma non perché avevo la depressione, non ho mai sofferto di depressione, non è assolutamente una situazione di depressione, ma di sfinimento, cioè proprio io percepivo chiaramente di mancanza di certe molecole che dovevano esserci per far funzionare il cervello, e io non ce l'avevo, le avevo consunte. Ecco, io consapevole del dopo credo che il mio star male sia dipeso da quello. Ma te in quegli anni sei stata mai male? Nel senso del riproporsi? Beh, ci ha appena raccontato forse sei di là che stava 20 giorni in Hospital Day. Sì. Ah, ok. A flebo di enna. Dove? TN, N è uno psicofarmaco, un ansiolitico. Ah, no, pensavo... Un ansiolitico, l'N. Sì. Sì, ora penso fosse N, perché N non... è un ansiolitico. Sì. Questo... sì, perché non è neanche che fossi capito, non potevo neanche andare dopo, sono andata a fare la psicoterapia. Ma allora mi dissero, ma in quelle condizioni che psicoterapia vuole andare a fare? Cioè, io, ecco, l'unica cosa che posso dire di me, che alla fine mi ha sempre fatto uscire dalle situazioni, è che sono sempre stata consapevole, cioè non ho mai pensato esagerano, non è vero che sto male, sono loro che dicono che sto male, ero consapevole che stavo male, ma ero anche consapevole che non ero pazza, cioè che non ce la facevo, però non volevo cedere le armi, cioè, e io in quegli anni lì le armi le ho cedute quella sera in cui mi sono dimessa. E sei toccata a me. Sono toccata ad Elena. Vabbè, non c'è di te. Però, dicevo, quando tu ti sei dimessa, no? Sì. Cioè, quindi non... Come posso dirti? Ovviamente, da quello che tu dici, non è stata ovviamente una liberazione. Cioè... Sì. È stata una liberazione, però non è... avendo accumulato tutta questa fatica, non cioè, è stato comunque un passaggio faticoso anche quello, questo voglio dire. No, cioè... è stato emotivamente forte in quel momento lì. Okay. Cioè, in quel momento, perché poi mi rendevo conto che non è che fossero contenti gli altri, il fatto che mi dimettevo. Quindi questa cosa, cioè, è stato, credo di interpretare come io vivevo, no? Questa nuova io, generazione. Se ti posso dire, politicamente io ero molto incazzata con te. Ah, ecco. E anche le altre, nel senso, perché da una parte lei si dimetteva e un po' la vivevamo come... Beh, mi lasciavo campo libero, cioè, sì, però comunque se ne va. Ma dall'altra, soprattutto, non fu tanto il fatto che ti dimettevi, ma fu il fatto che ti dimettevi senza dare una motivazione politica. Mentre noi ci aspettavamo... Una motivazione politica. Noi ci aspettavamo che lei esplicitasse i problemi infiniti di mancanza di apertura, orizzontalità, democrazia, eccetera, dentro l'arcigay. Lei invece fece un discorso di dimissioni completamente apolitico e questa non può ci fece la coglione. Quindi te, Graziella, sentivi anche in qualche modo, non dico, però diciamo la pressione di queste persone che ti circondano, cioè come dire, la responsabilità, la pressione. Che si aspettavano da me qualcosa dire. In più, che io non ero più in grado, perché io ebbi chiaro in quel momento lì, io avevo due opzioni. Un'opzione era dimettermi così come ho fatto, l'altra opzione era andare allo scontro con Grillini e sarebbe stato il meno il problema, è che avrei vinto io. E a quel punto non reggevo già più quella situazione. Mi rendo conto che intorno c'era un'associazione in cui tutte le lesbiche e una parte anche consistente dei gay volevano andare allo scontro. Quelli di cui si parlava prima, però la grazia io pensai che si vada a loro, la nuova generazione vada allo scontro. C'è quella che rappresenta la tua parte che se ne va dicendo sono stanca. Ho capito. E però forse invece è un po' come coordinava. Non puoi aver capre cavoli. Cioè non puoi aver capre cavoli. Io pensavo. Come la scelta, prima raccontavi di quel dirigente dell'Arci più anziano che aveva scelto di non. Che appena arrivate voi vi aveva lasciato un Tommaso. Di quello di Firenze. Poi alla fine sì. Io penso che avevo fatto, cioè io quello che mi era proposto l'avevo fatto, non è che ora posso fare, se no diventavo come Grillini, cioè la mia vita allora è solo quella lì, io non esisto più. Ma poi questo tuo compito non era nemmeno quello, poi da quello che descrivi anche caratterialmente. Esatto, non ero neanche adatta, cioè caratterialmente io forse sono stata adatta a fare quel primo pezzo. Fare quel percorso lì e poi a un certo punto... Sì, cioè... Non è chiaro. Sì, dopodiché capisco anche, cioè io percepivo cioè, che prima mi amavano tanto e poi non mi volevano più bene. E cioè, questo non era bello, non ero più voluta bene. E quindi, però cioè io pensavo anche non posso avere l'una e l'altra che mi vogliano bene, però io non voglio fare più niente, e quindi dissi io non voglio fare più niente, però piangevo fra una fontana, cioè, però in realtà c'era tutto questo dentro, però ero una persona distrutta, cioè, che cazzo potevo fare? Cioè, io non vedo, sì, beh, possono anche incazzarsi, ma se tu non ce la fai più c'è poco da incazzarsi. Io e questo... poi ripeto, non era solo la parte lesbica e gay, era anche la parte sinistra, movimentista. Contro, diciamo. Sì. Però che potevo fare io? No, ma poi forse era una richiesta loro, ma... Però ho pensato, lo faranno. Poi l'ha fatto. Ovviamente quelli erano dei volponi, quindi cioè, io mi rendevo conto anche dell'ingenuità loro tante volte. Però o ci sei o non ci sei. Dopo ora ce l'ha ancora che dopo io quando a Firenze dicevo che volevo fare un militante semplice. Ma è vero, non è che... No, a me quell'osa ci faceva due palle. Però era vero, io volevo proprio... non avere più incarichi di quel tipo, io l'avevo già fatto, il mio al massimo potevo aiutare e l'ho fatto, cioè a Firenze io quello ho fatto, l'unica roba che ho fatto io di mio a Firenze come mio progetto, come mia cosa è stato Daphne, però poi per il resto ho aiutato, mi sono prestata, come mi chiamava l'avvocato, la presidente Ombra, no? Perché la presidente era lei, però c'era sempre l'esperta di conflitto che ero io, cioè esperta di conflitto. L'esperta di avvocati io ero, sempre stata. Ora c'è quel momento in cui però io dovrei andare via perché c'è sta la... Ora si fa la pausa. Ora c'è la pausa. Pausa. Chiudo. Chiudo.